Before moving on, let's look at some of the language used in the last dialogue. Lorenzo said, Ci sono molte parole inglesi in italiano. Notice the position of the adjective inglesi. It follows the noun parole. Parole inglesi. Unlike in English, adjectives in Italian usually come after the nouns they refer to. For example, colors. Per esempio, i colori. Listen. Ascolti. Understand. Capisca. Listen again. Ascolti di nuovo. And repeat. E ripeta. Here's the first color. Bianco. White. Bianco. Nero. Black. Nero. Rosso. Red. Rosso. Giallo. Yellow. Giallo. Azzurro. Blue. Azzurro. You're now going to hear a noun and an adjective. Put them together in the correct order, and remember that the ending of the adjective follows that of the noun. Listen to the example. Ascolti l'esempio. Rosso, la borsa. La borsa rossa. So, as you heard there, because la borsa is feminine, rosso becomes rossa. Now you try. After the prompt, say the phrase during the pause and then listen to the correct answer and repeat it. Ready? Here's the first one. Nero. Il portafoglio. Il portafoglio nero. Giallo. La valigia. La valigia gialla. Azzurro. Il libro. Il libro azzurro. Bianca. La macchina. La macchina bianca.